sé yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chi può fare delle forme geometriche grandi come un campo di football? Che razza di macchina può piegare un fusto di Gran Turco senza spezzarlo? Non è opera dell'uomo, è troppo perfetto. Il 18° cerchio nel grano, nel paese, nelle ultime 72 ore. Ricorderete che abbiamo già parlato in una puntata precedente, fortemente corroborata da tutte le ipotesi pro e contro rispetto ai fenomeni paranormali, in particolare di cerchi di grano ne parlammo lungamente, ci fu chi ci spiegò come è facile farli, come è facile riprodurli, altri continuavano a telefonare dicendo che per loro era un fenomeno legato comunque a qualcosa che ancora la scienza non può definire o non può spiegare in fondo. Ma non è detto che la scienza debba sempre in maniera istantanea, immediata e comprensibile a tutti spiegare ogni fenomeno che accade fra cielo e terra. Esistono tante di quelle cose nascoste tra cielo e terra che nemmeno nei libri degli scienziati è possibile immaginarlo e pensarlo. La scienza si avvicina, cerca, deve trovare naturalmente la possibilità di dare prova e corredo scientifico ai fenomeni. Finché il fenomeno non ha un corredo scientifico, è un fenomeno che rimane appeso nell'area dell'improbabile, del probabile, del possibile, dell'immaginifico, del visionario, insomma in qualunque ambito ognuno voglia collocarlo. Per questo questa mattina voglio parlare nuovamente di contatti con presenze aliene. Voi direte, parlare di contatti con presenze aliene occorre farlo naturalmente con persone pronte a smontare ogni ipotesi, ogni idea. Sì, è vero, ma l'abbiamo già fatto. Questa mattina mi fermo al filo della visione. Io non devo dare né prova di certezza, né puntare il dito contro l'improbabilità, né dare un certificato di esistenza a ciò che noi ascolteremo. Questa mattina darò voce, senza pormi in nessuna maniera né scettico né critico, ma nemmeno entusiasta credente di quello che dicono, con persone che racconteranno loro testimonianze di incontri più o meno ravvicinati, non so bene definirli di che tipo, con qualcosa che ancora tecnicamente, scientificamente non è stato spiegato. Io personalmente ho continui contatti con presenze aliene. I miei contatti con presenze aliene iniziano la mattina quando esco dal portone di casa mia, quando entro dentro la metropolitana, quando guardo al di là del vetro e vedo Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti appartenenti a specie che probabilmente vengono da pianeti lontani del cosmo, ma poco hanno a che fare con il mio. Perché siete qui? Perché non ve ne andate? Come funzionano le vostre armi? Già arrivano le prime riflessioni rispetto a quello che ho detto io. Veronica mi dice: se parli di alieni di altri pianeti purtroppo non posso aiutarti. Se parli di alieni terrestri, beh, allora anch'io li incontro tutti i giorni, convinta che siano esseri umani, ma in realtà non lo sono. Dipende dai punti di vista. Beh, vi ricordo che gli aspetti più fantastici della narrativa fantascientifica sono basati proprio sul fatto che gli alieni molto spesso si nascondano sotto fattezze umane. Spesso sono umani come noi, di cui gli alieni sono impossessati, spesso dietro l'aspetto consueto, convenzionale di un essere umano si cela naturalmente il mostro spaziale, il cattivo, il buono, il salvatore, il progenitore del nostro DNA, come qualcuno dice, oppure la specie perfida di alieni che cercano spazi vitali per espandere il loro pianeta. Cittadini del pianeta Terra, vi porgiamo i nostri saluti e veniamo in pace. Chiediamo cortesemente al segretario generale delle Nazioni Unite di salire sulla sommità del Palazzo delle Nazioni Unite di New York questa notte alle ore 1, ora di Greenwich. Cioè stasera alle 8 a New York. L'aspettiamo. Grazie. È inutile dirlo, è uno dei grandi dilemmi in cui si dibatte l'uomo contemporaneo. che è convinto che comunque la scienza potrà risolvere molti dei suoi problemi, o perlomeno il progresso scientifico potrà renderlo più felice, più dinamico, più espanso, più ricettivo, più longevo, potrà dargli un'infinità di soluzioni a problemi che soltanto un secolo fa sembravano insolubili. Ma su due cose ancora l'uomo contemporaneo, secondo me, questo è un mio punto di vista, non riesce a dare una definizione possibile, non riesce a dare una data di arrivo della soluzione scientifica. L'una penso che sia quella della macchina del tempo. Guardate, sto parlando di cose che sembrano aliene rispetto a una consueta trasmissione di informazione radiofonica, però è vero, pensateci. Ancora su questo non abbiamo certezza scientifica. Se voi dite sconfiggeremo il cancro, certo, speriamo quanto prima in maniera totale, riusciremo a avere un contatto velocissimo telepatico con altre persone, beh sì, ci stanno studiando qualcosa, è solo questione di decodificare quelle che sono le emissioni elettriche del nostro cervello, e questo a un'infinità di domande possiamo rispondere. Ma la macchina del tempo ancora rimane come uno dei sogni accarezzati, dei vagheggiamenti che appartengono alla sfera dell'immaginario. E l'altra è quella della concreta prova e certezza che esistono altre presenze, altri esseri oltre la specie umana che noi ben conosciamo. Di questo sembra che abbiamo un'infinità di prove, sembra che esistono file segreti nascosti, oppure questi file vengono continuamente e precocemente desecretati. Abbiamo in mano testimonianze di aviatori, abbiamo foto, abbiamo tutte le prove della certezza che rappresentano in realtà per l'uomo contemporaneo la massima incertezza. Non c'è foto, non c'è filmato, non c'è registrazione che non possa allo stesso tempo dare l'illusione che qualcosa sia accaduto e dare la certezza che non sia mai accaduto. Siamo venuti in pace. Hai visto? Vengono in pace. Il nostro è il quarto pianeta della stella che voi chiamate Sirio, che dista circa 7 anni luce dal pianeta Terra. Fantastico. È la prima volta che abbandoniamo il nostro sistema e voi siete la prima forma di vita intelligente che incontriamo. I nostri nomi suonerebbero molto strani per voi e per questa ragione abbiamo pensato di attribuirci semplici nomi terrestri. Il mio nome è John. Già un ascoltatore, Lamberto, dice: ho capito, questa mattina ascolterò parole del mitomani alterati da chissà quali sostanze. Non cambierebbe comunque la sostanza dei fatti rispetto gran parte delle parole a cui diamo credito ogni giorno, che sentiamo dalla televisione, che leggiamo sui giornali, che rappresentano il nucleo fondamentale, non so, dello star system che provoca un'infinità di adepti e di linee di pensiero. Beh, questa mattina sì, farò parlare con persone che comunque hanno racconto di aver avuto questa esperienza. Il primo è Luciano Gasparini. Buongiorno Luciano Gasparini. È al telefono, dovrebbe sentirmi? Sì, pronto. Ecco, l'abbiamo raggiunto. Sì. Aveva al telefono la signora Maria Morganti che è vicino a me. È a volte più difficile mettersi in contatto attraverso una semplice telefonata che avere esperienze con trasmissioni non date da tutti. Ricordo che lei è ricercatore di simbologia cerchiana, poi mi spiegherà esattamente il significato, vicepresidente dell'Associazione La Corona. Lei, assieme a Maria Morganti, che è una contattista telepatica che sta assieme a lei, che anche lei è dell'Associazione La Corona, avete incontrato corpi di luce per la prima volta a Città del Messico nel settembre 2003, la seconda in Egitto, al Cairo, precisamente a Luxor nel 2005, il terzo nello Yucatan, nella Baia Caraibica, alle piramidi Maya, insomma avete girato alcuni dei luoghi simbolici attraverso cui tutta la letteratura del fantastico e concretamente coloro che trattano come materia certa l'incontro presenza aliena considera una sorta di luoghi fatali in cui si dovrebbe per un insieme di incroci sottili i grandi ricettori che mettono in comunicazione l'umanità con altri tipi di umanità. Assolutamente sì, però direi se è d'accordo, dato che noi questi appuntamenti sono stati redatti dalla signora Maria Morganti, se è d'accordo io passerei il telefono a lei che vi spiegherebbe un pochino il tutto come è iniziato e come è accaduto. Ecco, vabbè, allora Maria Morganti, buongiorno. Come preferite voi distribuirvi lo spazio? Maria Morganti, buongiorno. Ecco, pronto? Passaggio di telefono. Hanno un telefono in due. Grazie tanto di come ha spiegato tutte queste realtà, chiamiamole così. Ecco, lei allora, mi racconti in maniera concreta, come se raccontasse il fatto nei suoi aspetti reali, come tutti vissuti lei almeno. Fondamentali. Allora, io non ho visto avvistamenti, ma sono andata a appuntamenti, che è una cosa ben diversa. E chi dava questi appuntamenti? Allora, questi appuntamenti, siccome che io sono una contattata, e attraverso i miei emisferi cerebrali sento delle voci che provengono da lontano e hanno anche un chiarore. Dopodiché, quindi lei percepisce cerebralmente delle voci? I dialoghi, come dialoghiamo io e lei. Ma cosa la fa pensare che io devo fare delle domande? Che queste non siano allucinazioni, come potrebbe sentire le voci? Non è allucinazione, perché in vari anni di questi contatti mi hanno dato delle informazioni che avrebbero trovato i due pianeti, che su Marte c'era acqua, che su Giove c'era acqua, e poi praticamente che i ghiacciai si scioglievano, questo parlo di più di 20 anni fa, e poi piano piano ho scritto il tutto su dei giornali regionali della mia... Comunque lei ha l'idea, signora, che le informazioni che sono arrivate attraverso queste voci avessero poi un riscontro concreto nella cronaca, nei fatti. Esatto, che... io, sì. Descriva esattamente l'esperienza, però. Guardi, come è avvenuto questo incontro? Questa documentazione, che non mi serviva a niente, l'ho fatta pubblicare dai giornali a mio pagamento. Dopo un po' usciva che la scienza avrebbe veramente ritrovato quello che io ho detto. Ma cosa è? Mi descriva il fatto in sé, possibilmente. Sì? Descriva il fatto in sé, non l'apparato, diciamo, di cronaca. Lei dice che ha pubblicato sui giornali a sue spese. Pubblicato, sì, sui giornali a mie spese, per avere la forza di continuare avanti questo discorso, perché è difficilmente... Però ci dica come è avvenuto, come avviene l'incontro, ecco, come ci si incontra con queste entità, allora, come le chiamano? Mi hanno detto di andare, era il 2003, e siamo andati al Messico, e siamo andati in una zona limitrofa ad Amatran. E lì, dopo vari giorni, abbiamo visto dei corpi di luce, che sono esattamente la mente universale del creatore. Beh, questo, quello che sono, grandi, me lo dice lei, vorrei capire... Circa 4 metri. Ah, ecco, ha visto delle presenze di luce alte 4 metri. Esatto. Eravamo assieme a una biologa che non ha voluto mettere nome, perché a queste cose non ci crede. Abbiamo fatto questo filmato da Luciano Gasparini, che dura 37 minuti. Cioè voi avete 37 minuti di filmato. 37 minuti. Ma l'avete di fatto... Queste creature si muovono, respirano, sembra che conversano, hanno molti colori e sono meravigliosi. Un po' come... Io le chiamo le perle del cielo. Un po' come nei film di fantascienza, molte volte vengono ricostruiti. I più recenti film in cui ho visto presenze aliene sono questi esseri. Guardi, lunghi, alti. Abbiamo fatti analizzare, abbiamo i nostri diritti d'autore, abbiamo tutto quello che è giusto che sia, perché la corona spende del proprio, e cerchiamo anche di fare le cose al meglio possibile. Sì, ma io non, guardi, non voglio né in questa mattina né fare lo scettico né fare il sorpreso. Lei mi insegna che ogni prova visiva, audio, fotografica è una prova che può avere un vastissimo margine di contraffazione. Quindi non mi fermerei tanto sul filmato che avete, sulle foto. Mi parli proprio dell'esperienza che lei ha avuto personalmente con queste entità, con queste sue visioni. Allora, guardi, io queste creature le ho viste. Era nel 95, il 22 dicembre, alle ore praticamente 22. E cos'è successo? Ero nella mia stanza da letto e ho sentito la voce di Neuronice, che mi accompagna da tempo indeterminato. Questa è una presenza che è sempre in contatto con lei. Neuronice è un extraterrestre che proviene da Orione. Ma questo gli ha detto lui? Sì, mi ha detto: Maria, scendi giù, ho delegata, secondo... Vieni giù che ti facciamo vedere una cosa che a te piace molto. Ma che lingua parlano quando parlano con lei? Parla con la lingua nostra, italiano. Se dovessi andare in Francia, parlano in francese. Ah, quindi è un contatto che va oltre l'espressione linguistica, è un contatto profondo. Certo che comunque una voce così, anche perché non mi può parlare in tedesco se io il tedesco non lo so. È molto... Ci fermiamo un secondo, intanto io do il numero di telefono 800240024. Come vedete ho dato modo alla signora di parlare, di esprimersi, di raccontare l'esperienza. Vorrei introdurre però un altro ospite che abbiamo già avuto altre volte al telefono, che è il dottor Francesco Iori. Dottore, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei è un medico esperto di ipnosi, autore del libro Derive dell'ipnosi, stati modificati di coscienza, misticismo, ufologia, giurisprudenza, coniglio di Tore. Abbiamo già parlato di fenomeni simili con lei. Dalla prima analisi, da ciò che ha ascoltato dire da questa signora contattista, ritrova corrispondenze con l'oggetto dei suoi studi, delle sue analisi? Beh, l'oggetto prevalentemente è quello del rapporto della realtà e della sua, dei rapporti della realtà con quello che è la realtà condivisa dagli altri. È ovvio che queste situazioni sono delle esperienze, se noi le diamo per vere, delle esperienze particolarissime che quindi sono difficilmente credibili da parte di persone che non le hanno provate. Qui mi sembra giusto la sua premessa. L'esperienza comunemente condivisa è un'esperienza che ha un grado di accettabilità perché tutte la condividiamo. Certo. Alcune esperienze individuali che molte volte sono legate a stati di misticismo, a stati di allucinazione, a stati di estasi, a stati particolari di alterazione della propria coscienza, sono esperienze difficilmente trasferibili agli altri, o ci si crede o non ci si crede, ecco, tanto per esempio. Esatto, tant'è vero che i mistici spesso parlano di indicibilità delle esperienze vissute. È ovvio che qui si tratta di una situazione un po' diversa da quella dei mistici o di persone che hanno un percorso, diciamo, ascetico, di privazione, di stenti che portano a una condizione di modificazione di coscienza, diciamo, cercata. Diciamo che non c'è alle spalle un'ascesi, quindi un esercizio, un lavorare sul proprio corpo, sulla propria coscienza per arrivare a uno stato appunto di alterazione, ma alterazione non lo dico in senso patologico, in senso di uscita dallo stato di normalità, di veglia attraverso cui noi siamo abituati a vivere. Professore, ci fermiamo soltanto un istante per dare l'informazione dalla borsa. 800024, vedo che stanno 0024, vedo che stanno arrivando già le prime telefonate, alcune di scettici, alcune di entusiasti sostenitori del fatto che noi possiamo alterare la nostra coscienza a nostro piacimento. Uno può crederci o può non crederci. Melog 2.0. Quanti ce ne sono là? Non lo so. Contiamoli, permetti? 7 a sinistra e 5 a destra. Quattro a destra e 2 a sinistra. Devo trovare il leader. I Mangalore non combattono senza leader. Ancora un colpo e iniziamo a uccidere gli ostaggi. Ecco il leader. Mandate qualcuno a negoziare. Grazie, ma sono costretto a dire di no. Non ho mai condotto un negoziato. Le dispiace se tento io? No, certo. Sta uscendo uno dei nostri a negoziare. Qualcun altro vuole negoziare? Questo è naturalmente l'esito rispetto a un'umanità che non ha saputo stabilire il contatto giusto con le presenze aliene, ma si tratta del quinto elemento, di uno dei tanti film di fantascienza in cui gli alieni sono cattivi, sono nemici, e lo sterminio degli alieni è l'unica maniera, la prima maniera che c'è per salvaguardare la specie umana. Invece mi viene segnalato su Facebook da un'ascoltatrice un fatto che io avevo dimenticato, però dimostra quanto poi questo atteggiamento di ricettività nei confronti dei mondi paralleli sia condiviso a tutti i livelli. È un pezzo del Corriere della Sera che racconta la testimonianza della First Lady giapponese, la moglie del nuovo primo ministro, la signora Miyuko Hatoyama, che ha scritto un libro sulle sue esperienze aliene. Anche lei è stata rapita dagli alieni, è stata portata su un UFO triangolare su Venere, che è un pianeta molto bello e molto verde, dice, e anche lì pare sia stata esaminata, auscultata, palpeggiata, non so bene quello che fanno gli alieni quando prendono un corpo di umano e lo portano per studiare il loro pianeta. Questo non deve ridicolizzare assolutamente le testimonianze delle persone che abbiamo sentito prima parte, sono persone che hanno in piena coscienza avuto delle esperienze di contatti con delle entità che loro non sanno definire appartenenti a nessun genere conosciuto e scientificamente comprovato di esistenza. Ma sentiamo qualche ascoltatore. Carlo. Allora, grazie per per avermi chiamato. Io comunque la prima cosa che voglio fare è ringraziare lei per la pacatezza come conduce questo tema così importante. Ma no? Guardi, perché... se io mi devo incazzare ho tante occasioni durante il giorno devo farlo con gli alieni, figuriamoci. Mi deve credere per chiamare, essere ascoltato, e la sua pacatezza a me è disarmante, sto bene a parlare di una cosa che... Sì, ma perché non pongo a questo problema una vitale importanza nella mia sfera individuale, quindi lo ascolto con interesse, con divertimento. Beh, andiamo al punto. Non ho censure di pensiero, sono aperto, diciamo, ecco. Sì, no, ma è la pacatezza che mi ha colpito. E colpisce anche me, guarda, di solito sono nevrastenico. Comunque, andiamo avanti. Sì, allora, praticamente, io nel mio piccolo, io ci ho avuto degli avvistamenti anch'io, ero insieme ad altre persone, ho avuto anche paura di certe cose che praticamente mi sono successe, luci, bagliori del cielo che... Però volevo chiedere una cosa, innanzitutto alla signora, qual è il posto del Messico dove lei ha questo, diciamo, tra virgolette, avvistamento? E poi, se ognuno di noi ha questo piccolo extraterrestre che poi lo ispira, ci indica la strada da seguire, queste cose qui volevo chiedere alla signora da lei intervistata. Maria Morganti, le chiede l'ascoltatore esattamente, se è possibile saperlo, l'ubicazione del luogo dell'incontro messicano. Io non ho sentito quasi niente di ciò che... Da un ascoltatore vorrebbe sapere in quale luogo del Messico lei ha avuto questo incontro. Ad Amatron, Messico, abbiamo visto praticamente i corpi di luce. E poi nel Messico, nello Yucatan, abbiamo visto una nave di luce. Ma secondo lei c'è un legame fra le antiche civiltà che hanno abitato quelle terre e il fatto certo, che lì... Certo, si vedono molto di più quelle cose perché hanno un'energia... È una forma di campi magnetici, che non sa, che queste creature vanno molto da loro. Comunque c'è da considerare una cosa, che io ho sempre pensato che l'universo fosse abitato, ma io degli alieni, sinceramente, fino all'81 non mi interessava assolutamente. Quindi non aveva un preconcetto. Io non avevo un'ambizione di queste creature, sapevo che c'erano e basta. Una cosa posso dire, se un alieno ti dice vieni che ti porto in astronave, va. Cioè, ma certo, perché dire di no? Se è un invito gentile, uno va a vedere. Fernando. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io direi di cominciare così. Lei come la pensa? Cioè, sui alieni... Non lo so. Allora, per me, io non ci ho mai creduto, erano fantasie, come favole, e io li accetto, perché ho visto tante trasmissioni, ma comunque a me mi è proprio successo. Non mi scambiate con l'immenso inarrivabile Giacobbo, che già avrebbe creato dei legami con il Santo Graal, con gli alieni, col 2012 e via dicendo. Io semplicemente do voce delle persone. No? Però io adesso, cioè, aspetta che mi fermo, Allora, sono in bici. Sta pedalando, adesso, no? Pensavo che era in corso di un contatto ravvicinato del primo tipo. ma comunque a me è successo, quindi... Lei l'ha visti, allora? Certo, è venuto dal cielo e quindi... Ce lo racconti, non ci giri. Sì, a giugno è successo, quindi praticamente una mattina mi apro, cioè sono venuto a casa tardi, mi sono accorto il mercoledì di notte, no? E il giovedì mi apro la finestra, come faccio sempre, no? Nella mia casettina, e cavolo, io buttendo così un po', diciamo così, gli occhi, no? Come si fa sempre, e vedo il pesco, no? Che era tutto segato, tagliato, no? Con tutti i rami per terra, praticamente. Cioè, segano gli alberi. Ne è rimasto uno, un ramoscello così, tac. Me l'ha proprio segato, no? Perché quando poi sono andato fuori subito... È un'attività che a questa trasmissione è molto, molto consueta di segare. Sì, quindi... ma voglio dire, li ha spaccati proprio, no? E quando ho spostato c'era un masso, una pietra, no? Bella, perché è bella. Cavoli, se l'è tenuta lei? Certo, ce l'ho come soprammobile. Ma l'ha fatta analizzare, una pietra aliena? No, un momento. Appunto, questo è il discorso. Questo è che è un dilemma, questo qua. Cioè, perché, a dire, io lo faccio analizzare e poi dopo cosa succede? Se è un masso caduto da un aereo o da un altro... Io... Vabbè, l'idea... Lei ha paura di sapere la verità, ecco. Beh, insomma, diciamo così che è già un'idea intelligente. Quindi alla fine lei ha avuto un albero... Dunque, un albero. Spezzettato? Praticamente spezzato con tre rami che mi sono trovati per terra, il masso che è con il buco, no? Un buco. E l'erba che era abbastanza alta, praticamente è diventata come una rete. Ha capito? Una rete era. Mi sforzo a capire. A retina. Allora, un pratino retinato, un albero potato e un sasso, è un sasso da giardino zen. Un sasso, diciamo, beh, comunque è logico che spaccando da dove viene? Ah, non lo so. Viene dall'alto. Chi è che mi può spaccare un albero? Beh, che tanta gente fa atti vandalici sugli alberi. Ma che poi a 4 metri c'è la casa, né? A 3 metri c'era la macchina. Lei non ha sentito nessun rumore, motoseghe? No. Io alla notte non ho sentito nessun rumore. Sono tornato tardi, erano le 3 del mattino. Però non ha visto presenza aliena, ha avuto solo delle tracce. Ecco, e poi un'altra cosa. Che ha dei brillantini, no, la pietra. Al sole così, c'ha dei brillantini particolari, piccolini, finissimi, no? E dove c'è l'erba, dove c'è tutto il cortile, ci sono tutti i brillantini e con acqua, ho provato, acqua. Tutto. Ma non ha paura che sia una sostanza radioattiva, tossica, nociva, non lo so, qualcuno ci abbia allora... scaricato un bidone di quella robaccia che di solito mettono nelle navi e poi le affondano dalle parti del suo giardino, non lo so perché, capita. Sai? No, niente, beh, ma cosa... Beh, allora l'albero come si spiega che è partito? Voglio dire, le pesche, che era anche pieno di pesche... Non può essere qualcuno si è fregato orgoglioso. Le pesche? No, si è rubato le pesche qualcuno e quindi ha lasciato tutto? Non lo so, faccio delle ipotesi banali, Andando su... Un ladro di pesche che va lì, ruba le pesche, tira una sassata... Ma sono di quei peschi però... E la fa per terra e lascia tutti quei brillantini. Non lo so, vabbè, vediamo, sospendiamo. Ah, lei pensa che sia stato uno... un atto vandalico... Anch'io ho pensato quello, ma le pesche erano un po' indietro ancora. Erano acerbe. Beh, uno le stende le fa maturare in casa, anche meglio. Comunque, sentiamo un attimo, solo velocemente, Luciano Gasparini, se su questa particolarità ha qualche riscontro nelle sue esperienze, in quello che lei conosce o sa, o può essere semplicemente adducibile a un atto di banale vandalismo in un giardino. Gasparini. Sì. Non ho capito la domanda, sa, perché Maria mi ha passato. Ah, sì, allora mettetevi d'accordo chi segue la trasmissione e chi sta al telefono, perché sennò 800 24 00 24. Adesso lasciamo la linea alle informazioni del traffico. Nel frattempo Fabrizio Intonti ricorderà a Gasparini via interfonico qual è stata la domanda e vediamo se in seconda parte ci sanno dare qualche lume in più. Melog 2.0. Ora le farò una serie di domande di verifica. Attualmente è in posizione seduta? Sì. Sente dolore? Il mio corpo sì. Lei è umano? Il mio corpo lo è. È al corrente di un imminente attacco contro il pianeta Terra? Lasciatemi andare. Marco, buongiorno. Buongiorno, pronto? Sì. Buongiorno. Io chiamavo per una curiosità un po' zotica, forse, che mi ha sempre contraddistinto fino a quando da giovane leggevo libri tipo quelli di Peter Colosimo. Non so grande, se era presente. La stazione di Perugia era piena di libri di Peter Colosimo, assieme ai manuali naturalmente, come aiutarsi nei momenti di defaillance, come leggere il futuro, come vincere nei colloqui d'affari, come avere una personalità travolgente, come farsi crescere le tette, come avere un torace villoso. C'era tutta una serie di trattatistica, tra cui anche Peter Colosimo. Erano anche molti autogrill sulle autostrade, eccetera. E quello che mi sono sempre chiesto è questo, e cioè tutte queste esperienze di appuntamenti alieni, esperienze extrasensoriali, stati di coscienza diversi dall'ordinario, com'è che sono sempre associate a località esotiche o comunque, come dire, non voglio dire turistiche, però... Lei dice perché non vanno dal Bolognese a Piazza del Popolo, ecco, a farsi vedere gli alieni, che tutti lo saprebbero, ecco. Perché a Cusano Milanino, Cornaredo, Sesto San Giovanni, Tor Vergata, io sono di Milano ma immagino che... Tor Bella Monaca, lo Zen di Palermo, ci sono tanti posti che in cui gli alieni avrebbero modo di essere creduti, perché c'è gente che comunque li starebbe a ascoltare. Sentiamo Luciano Gasparini, chiede all'ascoltatore con un briciolo di malizia non celata naturalmente, cioè come mai si va sempre in luoghi esotici connotati da corrispondenze astrali, piramidi azteche, piramidi egizie, Stone Age, sempre dei posti dove comunque la storia ha già segnato un passato pregno di suggestione. Allora, intanto specifico subito che così ne approfitto per dare il nostro sito internet, dato che abbiamo anche pubblicato molte delle nostre informazioni, sì. È www.lacorona.org. Sì, www.lacorona.org. Sì, l'ha detto. Non lo dica una terza volta, sennò la devo segare. Perché... Devo dire all'ascoltatore che è anche un po' poco informato, perché il ricercatore è attento negli ultimi anni. Noi siamo anni, qui per informare, però non ne faccio una colpa. Gli e ciò che è stato visto nel mondo è talmente globale, a livello globale, che non si può più parlare di un posto piuttosto di un altro. Poi, nella fattispecie, sì, ma sia tranquillo, Gasparini, con le informazioni che ha ricevuto Maria, noi abbiamo avuto indicazioni particolari su alcuni luoghi del mondo, ma non per nostra volontà, per volontà di queste creature. Noi non abbiamo fatto altro che dare la nostra disponibilità con molta fede, e ci siamo recati in vari luoghi e abbiamo riportato in Italia oggi dei filmati che, al di là poi della mentalità scettica che può avere una persona piuttosto di un'altra. Beh, però scusi Gasparini, Gasparini si lascia interrompere un attimo, se no guardi esiste la sfumatura, ecco, sfumiamo un attimo Gasparini, ecco, guardi, la posso interrompere io a mio piacimento, se lei parla senza darmi la possibilità di interloquire io mi comporto in maniera molto radicale, molto vessatoria, molto più dei suoi contatti alieni, gli ho dato modo di tranquillamente Spori, rialziamo un attimo Gasparini e vediamo se riusciamo a colloquiare. Mi sente Gasparini? Sì. No, mi lasci interloquire, se no è un monologo. Voglio dire, l'ascoltatore, il cui scetticismo può essere condiviso o non condiviso, ma è una libera espressione del suo pensiero, quindi... Io ho chiarito solo la nostra esperienza, noi siamo testimoni e testimoni oculari in questo caso. Sì, però anch'io potrei dirle di aver visto la Madonna qui fuori della porta della radio. No, potrei dire ognuno, questo lei può dire rispetto. L'abbiamo visto, l'abbiamo filmato. Sì, ma guardi, il mondo è pieno di filmati finti, i giornali sono pieni di fotografie che sono di dubbia interpretazione. Abbiamo già detto più volte che i filmati sono stati periziati, come vi ripeto, da un organismo ufficiale che è il CUN, Centro Ufologico Nazionale Italiano. E vabbè, anch'io posso periziare che sia buono il vino prodotto dalla mia vigna, scusi, è la stessa allora cosa. Allora diventa tutto sindacale. No, come testimoni ci inseriamo con le nostre. Ma io guardi, vi ho dato modo di parlare, di raccontarvi in serenità, ma l'orecchio fertile che sarà contento ad ascoltare, l'orecchio meno fertile. Certo, non sarà molto contento. Questo è il principio basilare di chi vuole dare spazio e libertà di espressione, però non porti argomenti. Il punto della vostra trasmissione sia questo, no? L'ha ribadito all'inizio. Sì, ma infatti vi sto facendo parlare, lei che ha un po' difficoltà a essere interrotto da me. Fa parte... No, è perché noi siamo con un telefono che spesso ci arriva il segnale molto alla fine e sentiamo un pezzo di quello che voi dite, questo forse è il problema. Ah, problema di comunicazione. Problema tecnico, non personale nostro, noi No, molto educate, non è un problema nostro. Anche io sono educatissimo. Allora, mi diceva, dalle vostre documentazioni va sconfessato l'idea che comunemente abbiamo noi poco informati, che certi fenomeni si verificano soltanto in zone fatali, comunque segnate da una storia. Nel mondo, negli ultimi 6-7 anni, avvistamenti in tutto il mondo ormai, a livello globale. E corrispondono, diciamo, la messaggistica che arriva da questi avvistamenti? Di questo si potrebbe far parlare di nuovo Maria. Io posso accennarvi che... Vabbè, se lo sa, lo dica lei, se no... Poi vanno in un canale unico. Poi, naturalmente, Maria vi può spiegare nello specifico i messaggi tranquilli, sereni e di pace che portano queste creature, come ha ribadito Maria prima. Quindi, diciamo, essenzialmente, a voi risulta che il messaggio che viene da... queste presenze, quello di vogliatevi bene, non vi fate le guerre, non distruggete il pianeta. Assolutamente armonioso. Come Maria ricorda spesso nelle nostre conferenze, il caos è qui nella Terra, non c'è caos in cielo, c'è ordine ed equilibrio. evidentemente questo l'hanno sempre detto anche tutte le grandi teologie. È chiaro che limitatezza e la parzialità della natura umana fa sì che noi non, la perfezione sia un grado da raggiungere, la trascendenza sia qualcosa da conquistarsi, se no già vivremmo in una sorta di paradiso terrestre, in una visione. Come mai noi sì e molti no? E Maria spesso risponde dicendo che noi siamo persone semplici che in tutti questi anni stiamo raccontando tutte le cose come ci vengono dette, senza manipolare nulla o senza travisare nulla. Penso che voi da questo... Evidentemente questo rapporto che loro hanno con una certa tipologia di vita su questo pianeta di quasi qualche centinaio di migliaia di anni, evidentemente hanno visto che le strade che abbiamo, che stiamo percorrendo, non sono molto consone alla continuità del nostro stesso pianeta. Questo diciamo è il senso profondo di tutte le profezie, di tutte le apparizioni, di tutti i segnali che verrebbero dal cielo, che dicono agli uomini, avvertono gli uomini che stanno facendo cose sconsiderate. Francesco Iorio, le ho dato modo di ascoltare tutto, ma sarà un panorama che lei già conosce. Lei trova che ci sia una comunanza visionaria in questo senso, che dal cielo ci vengono messaggi e moniti di pace, di serenità e tranquillità? E ripeto, dalla sua esperienza trova conferma in quello che abbiamo detto questa mattina, che non mi sembra nulla di nuovo e sconvolgente, ma abbiamo ripetuto dalla viva voce di protagonisti e persone che si fanno portavoce nella loro esperienza, il fatto che esista questo grossissimo desiderio di entrare in contatto con qualcosa che non appartiene alla nostra realtà concreta. Io, se mi permette, vorrei fare una piccola citazione di alcuni esperimenti fatti in passato, ormai noti ai più nel campo degli stati modificati di coscienza. In pratica, cosa è successo? In America, una ventina d'anni fa, anzi anche 30, praticamente si voleva capire come facessero alcuni sciamani ad avere certe visioni, certe situazioni, certi viaggi astrali, eccetera. Questi sciamani prendevano degli psicofarmaci. Sì, delle sostanze tratte da liane, da piante, da qualunque. Esatto. Quindi ricercatori, presero un gruppo di ricercatori, diciamo, abbastanza affidabili, e fecero assumere a queste persone la mescalina, il peyote e gli altri, diciamo, psicofarmaci utilizzati da questi sciamani. Il risultato fu negativo, cioè nessuno dei ricercatori ebbe le stesse esperienze citate dagli sciamani. Qual è stata la conclusione? La conclusione è stata che praticamente cambiava il contesto in cui venivano fatte queste cose. Allora, prendere uno psicofarmaco in condizioni di un percorso spirituale dà un risultato, prenderlo in qualsiasi altro contesto ne dà sicuramente un altro che non è mai quello del percorso che è stato preso. Quindi mi sembra chiaro e conclusivo, visto che siamo arrivati ben oltre il limite massimo, che il contesto generale dell'umanità in questo momento, grazie alla velocità e alla globalizzazione delle informazioni, è un grande senso di attesa, di angoscia per il presente, come è sempre stato nella storia dell'uomo, che si rivolge a qualcosa che trascende la nostra esistenza, al quale ci aspettiamo un monito di salvezza, di sicurezza, di tranquillità, ma questo è quello che tutti vorremmo. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.